Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Si parla da anni, spesso anche un po' a sproposito, di economia all'idrogeno come fosse la soluzione di tutti i mali. Probabilmente non lo sarà e tuttavia l'idrogeno rimane per molti versi il vettore energetico ideale, dato che permette di accumulare con un peso ridotto ingenti quantitativi di energia, come per esempio quella dei picchi di produzione dell'eolico e del fotovoltaico, e perché una volta bruciato per produrre energia elettrica, l'idrogeno rilascia nell'atmosfera nient'altro che vapore acqueo. Ma prima che possa diffondersi come carburante per l'industria automobilistica oppure come alternativa, diciamo, alle batterie per alimentare dispositivi mobili, è necessario trovare un modo sicuro ed efficiente per immagazzinarlo e trasportarlo. Naturalmente l'idrogeno si può accumulare ad alta pressione in speciali bombole, ma c'è un'alternativa più sicura. Infatti l'idrogeno viene assorbito facilmente dai metalli, che nei suoi confronti si comportano un po' come fossero delle spugne, riuscendo a sequestrarlo e a stabilizzarlo. È una strada su cui si lavora da anni e che di recente ha portato l'Enea allo sviluppo di un brevetto. In particolare il gruppo di ricerca coordinato da Amelia Montone, ricercatrice appunto dell'Enea ed esperta di tecnologia dei materiali. Buonasera Montone, benvenuta. Buonasera, salve. Senta, allora ci descriva intanto questo brevetto, partiamo da qui. Allora, la sostanza di questo brevetto è questo, che questi materiali di cui lei ha parlato vengono utilizzati quasi sempre sotto forma di polveri per applicazioni più pratiche, sia nello stazionario, nell'automotive. Ultimamente vengono compattati. Quindi abbiamo una polvere di metallo, nel vostro caso il magnesio, e si fanno delle specie di compresse. Sì, e vengono fatte queste pasticche, diciamo, l'invenzione è stato quello di rivestirle con uno strato metallico, di metallo, ovviamente opportunamente scelto, in maniera che non desse fastidio a tutto il sistema. Perché questo rivestimento? Perché la problematica un po' di questi sistemi è sempre stato quello della possibilità di utilizzare questo materiale molte volte, quindi di essere sottoposto molte volte a ciclaggio in idrogeno. Quindi carica e scarica, un po' come si fa con le batterie, per capirsi. Sì, esattamente, quindi assorbire e desorbire idrogeno da una parte e dall'altra per utilizzarlo non solo a livello di laboratorio ma ad un livello insomma più ampio, è necessario che questo materiale possa essere in qualche maniera maneggiato e non solo con tutte le attenzioni che vengono fatte in laboratorio, tipo camera guanti, eccetera, eccetera. Ecco, perché queste polveri, se sono esposte all'aria, questi metalli, soprattutto caricati con l'idrogeno, che cosa può succedere? All'aria o all'acqua? Viene danneggiato il materiale stesso, per cui il materiale che intrinsecamente ha una percentuale di stoccaggio di idrogeno perde perché non è più puro, ma in qualche maniera è ossidato. Diventa ossidato, quindi questo rivestimento metallico esterno a queste pastiglie fa sì che l'idrogeno riesca a entrare e uscire, ma il resto, l'ossigeno che è più grosso, una molecola più grossa, non riesce a passare e quindi isola queste pastiglie da eventuali dall'esterno, diciamo così. Che aiuta. Ecco, ma più che altro quando utilizzo questa pasticca a un certo punto non funziona più perché si rompe. Allora questo sistema mi permette di mantenere proprio più integra per più tempo la forma geometrica della mia pasticca. Senta, il brevetto di cui stiamo parlando è uno dei risultati del progetto europeo HydroStore che lei ha coordinato e si concluderà l'anno prossimo. Con quale risultato concreto? I risultati concreti sono saranno a brevissimo la realizzazione di prototipi di serbatoi per applicazioni nel campo stazionario e nel lagunare, quindi ovviamente utilizzando serbatoi con caratteristiche diverse nell'uno e nell'altro caso. molte parti di questo serbatoio ovviamente sono già pronte e quindi speriamo tra breve di poter presentare questi due prototipi. Che si spera finiranno anche per fare delle prove a bordo di qualche imbarcazione, appunto in qualche applicazione concreta. Senz'altro, anche perché in questo progetto IdroStore, come quelli tipici di Industria 2015, sono coinvolte molte industrie che sono fortemente interessate alla problematica e quindi ci auguriamo che o loro o altre industrie prenderanno spunto da questi prototipi e quindi potranno utilizzare poi questi serbatoi. Grazie Amelia Montone. Grazie a lei. Anche per questa sera è tutto, ci risentiamo domani. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.